Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale, spazio-temporalmente dislocato, a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E buonasera carissimi amici di Runtime, benvenuti qui come al solito su www.runtimeradio.it, la web radio che vi fa impazzire a tutti quanti, e per ascoltarci dovete venire sul sito, ma lo sapete se ci state ascoltando. Se non ci state ascoltando è inutile che ve lo dico, perché tanto non è che vi arriva per interposta persona. Detto questo, bentornati a Quando eravamo futuro. Abbiamo saltato due settimane perché abbiamo avuto tante cose da fare, abbiamo avuto il male anche un po', che ne so, qualcosa ce l'abbiamo avuto, insomma, e adesso non state a sottilizzare sul perché e sul per come, ma io sono insieme a tutti gli altri ragazzi, insomma, ragazzi giovanotti della Combriccola, ossia partendo da Carlo Sant'Agostino. Grazie per il giovanotto di una volta, però buonasera a tutti. Ricordiamo sempre, che non lo ricordiamo mai, che c'è anche il gruppo dirette su Telegram, cui potete in tempo reale mandarci a quel paese. Dunque è semplice, ascoltate la trasmissione tramite www.runtimeradio.it in diretta, altrimenti nella versione podcast, poi su Spotify, su Spreaker, dove esce. Ma se volete interagire con noi, dirette Runtime su Telegram. Chiaramente vi inserite, ogni tanto entra qualcuno, ma di solito sono delle persone malintenzionate che parlano lingue che non conosciamo, e poi noi li cacciamo, perché noi facciamo così, insomma, assolutamente. Detto questo, salutiamo anche Davide Gatti. Buonasera, anch'io ringrazio per il giovanotto, visto che sono anche il più giovanotto di tutti, e niente, vediamo come... Voglio, stasera sono proprio curioso. Sai un cazzo, stasera sono un cazzo. Però fa niente. Però magari vedrai che ti viene qualche spunto, qualche cosa. Insomma, vedrai. Sono abbastanza convinto, perché tutto sommato il tema della serata, di cui poi parliamo dopo, è un tema che secondo me è correlabile a tante altre cose, cioè al di là dello specifico, no? Nel senso, poi ognuno può aver fatto delle scelte come quelle che ho fatto io, secondo me in altri campi d'azione, quindi magari vi potete anche inserire in questo. Ma salutiamo anche il sopravvissuto da una giornata drammatica fatta di gente che ruba cose, Roberto Tomaiuolo. Eccoci qua, sopravvissuto. Sì, di che parliamo stasera? Parliamo di raccontaci che cosa è successo, c'è un po' di gossip così. No, niente di che. Sebbene mi trovo qui nel nord Europa, qualcuno ha pensato bene di sfasciarmi il deflettore, ciularmi la valigia, quindi privandomi di abiti, mutande e altri ammenicoli vari che di solito sono utili, però è il microfono per partecipare, quindi mi sentirete malissimo. Guarda, no, ti si sente. Però domani torno a casa. Tutto sommato ti si sente bene, devo dire la verità. Però tu dici mutande, cose che insomma di solito sono utili, però ricordati sempre che sei in posti dove non si lavano il culo, quindi cioè alla fine chi se ne frega, non se ne accorgono neanche, diciamo. Comunque ho già ordinato tutto su Amazon, quindi domani mattina quando torno a casa in Italia dovrei trovare tutto: valigia, mutande, microfono. Ma sì, infatti la potenza di quest'uomo che si fa beffe di coloro che gli creano degli ostacoli. Comunque tu hai detto, dice, nonostante essere in Nord Europa, perché tu dici che queste cose non succedono in Nord Europa, insomma, questo vorresti dire. La credenza. Beh, dai. Qui è abbastanza, qui dove sono io, sono vicino a Bruxelles, è abbastanza, anche se facciamo un discorso razzista, non è che sono proprio i belgi, sono personcine che vengono da altri posti. Ecco, vedi. Bazzicano. Allora, ragazzi, prima di iniziare volevo attirare un po' la vostra attenzione, se ci riesco, perché poi alla fine sembra che io sono preparato, ma in realtà non lo sono. Eccoci qua. Le due puntate scorse, quelle della... che abbiamo fatto tramite Davide con la scuola, ci sono un paio di commenti, li leggiamo così poi magari rispondiamo anche e poi dopo partiamo, insomma, anche mettere la posta all'inizio secondo me è utile perché si ricollega, fa la transizione, no? Perché poi magari parlare del nuovo argomento e poi tornare indietro è un po' più disagevole dal punto di vista umano, e poi alla fine della puntata siamo stanchi, non ci va di leggere i messaggi. Allora, Andrea De Girardis ci scrive: da me in Sardegna negli anni 80 fiocco uguale per tutti, grembiule maschi nero, femmine bianco. Ecco, io ribadisco questa cosa, da noi c'era il grembiule blu e bianco per le ragazze e il fiocco era invertito, ossia bianco per i ragazzi e blu per le ragazze, insomma. Quindi, visto che questa cosa evidentemente non era così omogenea, insomma, questa mi fa piacere, perché insomma pensavo che fosse un po' tutto più accorpato da questo punto di vista. Punizioni corporali anche ancora in auge. Ricordo che la maestra in prima elementare minacciò di spogliarci tutti nudi se non restavamo in silenzio. Questa cosa se la ricorda ancora come se fosse ieri. Beh, devo dire che oggi sarebbe andata in galera, penso, la maestra, per una cosa del genere. Sì, insomma, quindi, tutto sommato. Beh, noi ci saremmo spogliati tutti. Sì, alle elementari tutti ignudi, che ce ne fregava tanto. Non capivamo neanche il senso, però diciamo, ecco, questo senso di abuso veramente inquietante. Devo dire questa cosa, ma questo messaggio l'ho voluto leggere perché in effetti sì, c'era il discorso delle punizioni corporali, ma addirittura minacciare di spogliarli tutti nudi se non stavano in silenzio è veramente, cioè, al limite dell'abuso proprio anche psicologico, insomma. Quindi io penso veramente oggi sarebbe andata in galera. Invece Maria Goretti, che noi sappiamo non essere Maria Goretti, ma essere il nostro carissimo amico Morgan, che non so, utilizza questo acronimo, non so perché, poi non è un acronimo, però vabbè. Dice: a un certo punto la puntata sembrava un OGM. Bel format quando eravamo Futuro. Allora, giustamente io mi sono un po' interessato in che senso sembrava OGM, perché insomma penso che veramente tra OGM e quando eravamo Futuro, insomma, c'è una bella differenza. E lui ci dice più o meno a metà le risate coprivano quello che dicevate. Allora, da quel punto di vista probabilmente, perché se ci siamo divertiti, è stata una puntata molto molto molto carina, insomma. Va bene. Volete aggiungere cose? No. Ci avete voi ricevuto feedback? Insomma, perché noi siamo stati un po' assenti, però ogni tanto qualcuno scrive qualcosa. Rimane comunque una trasmissione abbastanza seguita. Io ho un problema, che mi scrivono, mi dicono le cose. Te lo scordi. Non mi dico, esatto, e quindi. Io sono stato sorpreso dai dati che ci hai fatto vedere. I dati segretissimi che chiaramente non possiamo dirvi, esatto, o dovremmo uccidervi. E non dobbiamo, soprattutto. Non dobbiamo, però sono rimasto sorpreso, questo lo possiamo dire. Ma chi l'ha fatti vedere? Io non lo so, che non mi ricordo. È Carlo l'uomo dei dati, quindi. Sì, no, quella... delle varie monetizzazioni, quando eravamo Futuro, va, tira. Va, sì, no, devo dire che... $700,000-$800,000 li fa. diciamo che noi eravamo sicuri, no, perché un format come questo, insomma, sapevamo che avrebbe attirato l'attenzione, ma secondo me si potrebbe fare molto molto di più, insomma. Quindi ecco, cerchiamo di spingere questo programma meraviglioso sugli anni 70 e 80, dove raccontiamo anche aspetti legati a usi e costumi, anche se ci siamo un po' fermati sul discorso di usi e costumi, a parte la scuola ci siamo un po' più soffermati sui giochi, le cose. E quindi anche questa puntata, questa è una puntata particolare, dove io racconterò un mio percorso personale legato a una cosa alla quale sono molto legato, che come tutte le cose che in qualche maniera emulano la realtà, riescono a dare grandi gioie, ma raccontano anche storie drammatiche in una maniera incredibile, cioè storie di terrorismo, di morte e devastazione, cose che tutto sommato, se voi pensate a di che cosa stiamo parlando, la domanda nasce spontanea: in che maniera questa cosa può essere legata a morte e devastazione? Ve lo racconterò, insomma, perché è abbastanza semplice. Parliamo di una cosa che ho visto improvvisamente apparire nella mia vita a casa di un mio amico dal quale andavo spesso, e non sapevo che lui avesse questo gioco. A un certo punto, entrando in casa, la mamma: ah sì, prego, guarda, stanno giù in fondo in cameretta, lui e il fratello. E entrando in cameretta vedevo che stavano per terra sdraiati a pancia in sotto, e a un certo punto vedo questo rettangolo, questo grosso rettangolo verde in mezzo alla stanza, e dico: cazzarola, che cos'è? È una cosa meravigliosa. Ed era praticamente la prima volta che io vedevo il subbuteo, come lo diciamo noi a Roma, o subuteo, non so, perché poi, essendo nato addirittura nel 1947, ragazzi, chi l'avrebbe mai detto, nel 1947 in Inghilterra, penso che la pronuncia sarebbe subuteo, subuteo, non so, non ne ho la più pallida. In Inghilterra penso che comunque lo pronuncino subuteo, perché in realtà è un nome scientifico. Non so se sai che cosa, da dove deriva il nome subbuteo. Io so che c'è un falco subbuteo, so che c'è un... Esattamente, okay, il falco subbuteo, che però è il nome scientifico, quindi latino. Ok. Perché in realtà il nome comune è lodolaio in italiano, ma quello che gli interessava era il nome inglese, che si chiamava hobby, questo tipo di falco. Ah, ok. E infatti voleva chiamare il gioco, voleva chiamarlo hobby, cioè una cosa così, ma l'ufficio brevetti inglese hobby non era registrabile, perché è un nome comune, no? Un hobby, certo. Passatempo, nel senso di passatempo. E allora lui, siccome l'inventore del subbuteo era un ornitologo, sapeva che hobby era un falco, il nome scientifico del falco era il falco subbuteo, e da lì gli diede il nome subbuteo. Una cosa un po' complicata, ma beh, vabbè, da lì è arrivata. Molto interessante questa nozione, tutto sommato. Non ne avevo la più pallida idea. Sapevo questa cosa del falco, ma non sapevo in che maniera questa cosa si potesse correlare, poi, tutto sommato. Quindi alla fine mi fa piacere averla scoperta. Tra l'altro, il falco a Roma, insomma, si collega anche a una brutta battuta che, se volete, faccio, tanto insomma, voglio dire, questo è un podcast per adulti, perché se uno ti si avvicina e ti dice farco, e tu non gli devi rispondere, perché se lui ti deve fare un farcoglione, capito? Cioè battuta più brutta del mondo, è bruttissima, no, però funziona. Io ne so una più brutta, dai, vai, dai, che ci interessa, tanto è una puntata un po' a casaccio questa, vai, vai. Quando moriremo? Non lo so. Quando lo uccise Romolo? Beh, non è male, non è male. Però questa è più cerebrale come cosa, cioè più cervellotica, ci devi pensare un attimo, quindi... Ok, con questo concludiamo, io direi, la puntata. Sì, se lo vogliamo aggiungere, ciucciamo le tette alle Barbie, direi che possiamo concludere. Beh, la concludo io, sempre ritornando agli ambiti scolastici dell'altra volta, quando tu ti avvicinavi a un amico, un amichetto, e gli dicevi: qual è il dispregiativo di teschio? E quello ti rispondeva: teschiaccio. E ti dai una botta davi una botta sulle palle, ti schiaccio le palle. È bello. Perché siamo oggi M2 la vendetta. Esatto. No, in realtà sì, adesso torniamo normale, perché il commento di Morgan sembrate OGM ci ha ferito, tutto sommato, no? Nel senso, non che noi volevamo fare tutto un altro programma, insomma. Vabbè, salutiamo Michela e Walter intanto in chat. Io ci sono, ma mi si mossa la chat. Accrocchio la cena, che sto fuori con la Cuso all'orario di stasera. Mangia insieme a noi, ci fa pure piacere, insomma, che ti facciamo compagnia in questa cosa. Comunque, mangia sereno soprattutto, cioè, nel senso, non so, se hai un amico che si chiama Sereno, pia e magnatelo. basta OGM. Vabbè, comunque, dicevo, insomma, entrato dentro la casa di questo mio amico, ho visto questa cosa meravigliosa. Che cos'è il subbuteo? Che poi, come si apparecchiava il subbuteo? Era pure abbastanza semplice, anche se il problema del telo è che il telo, dopo che tu l'avevi tirato fuori dalla scatola, come tutti i giochi da tavolo, insomma, aveva una sua confezione e tutto quanto, stropicciato. Diciamo, sì, la cosa migliore era avere una tavola di compensato, più o meno proporzionata, con forse un pochino più grossa, leggermente più grossa nei bordi, insomma, del telo, appiccicarci il telo e lasciarlo sempre lì. Il telo, poi, rimanendo in tensione, sarebbe tornato, insomma, normale, oppure gli davi una stirata, ma non era una cosa consigliabile, perché comunque era di il telo originale, cioè quello che ti veniva dato di base, era veramente roba ipersintetica, penso che piava fuoco in 2 secondi, insomma. No, però guarda che io mi ricordo, invece mi ricordo poco del Subbuteo, però mi ricordo che mio fratello viaggiava di ferro da stiro, però invece però il telo originale fosse di un tessuto, perché sì, il gioco è molto vecchio, stiamo parlando probabile 47, sì, sì. E poi noi lo giocavamo negli anni 70, quindi era probabilmente in tessuto, però diciamo che quando io ci ho avuto a che fare, quindi fine degli anni 70, inizio anni 80, per un po' degli anni 80, diciamo così, era fatto col plutonio, non lo so, sì, però no, comunque non mi sembrava un materiale, anche se poi dopo per gli c'erano due versioni, esatto, per gli appassionati c'era, esatto, c'era il telo Astropitch, che insomma era il telo da signori, quello un po' più vellutato, no? Quello proprio fatto bene, dove il pro ci giocava, perché comunque in effetti c'era tutta un'altra risposta, diciamo così. E come si gioca questo gioco? Questo gioco è bellissimo perché in realtà simulava, tra virgolette, in tutto e per tutto il calcio, quindi il campo era proporzionalmente in scala delle dimensioni corrette, tranne una singola variante che poi vi spiego. C'erano 11 giocatori per squadra, chiaramente, che tu potevi allestire in tutta, cioè, come insomma ritenevi, quindi praticamente con i vari moduli che c'erano allora, e praticamente ovviamente c'era la pallina, questi la pallona gigante, la pallina, esatto, che era una palla gigante, cioè la palla era grossa come i giocatori, come giocatore, che era la cosa più, diciamo, che stonava di più, insomma, però d'altronde era un gioco da tavolo, ci poteva comunque stare. I giocatori erano su questa basetta che più o meno li manteneva in equilibrio, tranne i portieri, che invece avevano una stecca dietro la porta, che ovviamente tu potevi muovere il portiere più agevolmente, altrimenti sarebbe stato difficile controllarlo. E si giocava ovviamente in teoria nella versione base, quindi quella proprio per dilettanti, si giocava a turni, cioè nel senso prima il turno mio, poi il turno tuo. In realtà il gioco, insomma, più skillato, e ci sono moltissimi video su YouTube anche dei campionati e via dicendo, la regola del turno a testa vale sempre, però tutti possono muovere più pedine contemporaneamente a seconda della situazione, perché se io vado avanti con la palla, l'avversario può disporre tramite schiccherata ovviamente i suoi personaggi in maniera difensiva per impedirti, insomma, di raggiungere l'obiettivo. Una grossa differenza che c'era dal campo di calcio e quindi anche dalle regole di calcio reali era la linea di tiro, perché ovviamente nel Subbuteo, se io stavo all'altezza del mio portiere, tiravo una schiccherata forte, potevo segnare pure dal campo mio, cioè nel senso, e questa cosa chiaramente rendeva irrealistico, insomma, tutto sommato, quello che già faticosamente cercava di essere realistico. E quindi hanno messo questa linea di tiro, ossia praticamente una linea che si trovava tra la linea di centrocampo e la linea di porta, ovviamente, del tuo avversario, e tu, superata quella linea, potevi ovviamente tirare, altrimenti era offside, cioè quello che noi oggi nel calcio consideriamo fuorigioco, ma chiaramente nella versione specifica del Subbuteo. Il gioco alla fine aveva due peculiarità fondamentali. Uno, era divertente all'inizio, soprattutto se tu ci mettevi la fantasia. Noi con un amico mio, cioè con l'amico mio, facevamo una cosa veramente bella, secondo me, cioè oggi a ripensarci molto, molto romantica tutto sommato, che era quella di prendere una radiolina, metterla, prima prendevamo una specie di abaco numerico, insomma uno di quegli strumenti che avevano i numeri che giravano praticamente, e lo utilizzavamo come tabellone, quindi ci mettevamo il risultato, diciamo così, non si sa che squadre erano, però si sapeva il risultato. E l'altra cosa era quella della radiolina, perché la radiolina messa in una non stazione, cioè nel senso in una posizione senza segnale di trasmissione, praticamente il rumore di fondo della radio sembrava il rumore dei tifosi, fondamentalmente. Il rumore bianco sembrava un po', esatto, sembrava, tra virgolette, con un po' di fantasia, sembrava il rumore dei tifosi. E quando uno segnava, alzavamo il volume, capito? Era tutto sto rumore, che ovviamente grossa fantasia, però tutto sommato i giochi come il Subbuteo, secondo me, in qualche maniera, a meno che non eri proprio iper tecnico e quindi ci sapevi super giocare, diciamo che alla fine era quello, insomma, il divertimento, cioè trovare anche la fantasia, no? E la cosa bella è che comunque esistevano più o meno tutte le squadre importanti, insomma, del... Tu andavi al negozio, io mi ricordo c'era un periodo in cui ne compravo a manetta di squadre, ce ne avevo veramente tante. Ma rimaniamo ancora nella fase del racconto in cui siamo a casa del mio amico, dove praticamente è successa la prima tragedia, perché chiaramente calcio e tragedia sono cose che in qualche maniera hanno percorso la storia dell'umanità, insomma, da quando esiste questo sport a livello insomma grosso. E mi ricordo che c'era una bellissima finale tra me e il mio amico. Tutte le partite le facevamo noi, quindi era comunque tra me e il mio amico, però era una finale Italia-Brasile che alla fine dei tempi regolamentari, che non ricordo neanche quali fossero e come tenessimo il conto, era finita in parità e quindi si era arrivati ai calci di rigore. E quindi avevamo scelto i 5 giocatori, era una cosa inutile perché bastava un giocatore poi tutto sommato, però noi così per rendere la cosa più realistica, un po' di suspense, no? Cioè, questo è lui, questo è lui, questo è quell'altro, avevamo scelto 5 giocatori e gli altri giocatori erano dall'altra parte del campo, no? Come giustamente succede anche nei campionati reali, cioè nel senso comunque i giocatori che non battono i calci di rigore sono a una certa distanza e assistono a quello che succede. E praticamente io non avevo mai vinto una partita perché era una pippa, io sono proprio, cioè io il subbuteo, allora perché te lo sei comprato, perché cioè, perché poi ve lo spiego, perché comunque ero proprio una pippa, cioè non ero proprio buono a giocarci. E l'unica volta che ero riuscito a non perdere era questa partita qui che era finita 0-0, che all'ultimo calcio di rigore il mio amico sbaglia e quindi io mi trovo di fronte all'opportunità di dare il rigore della mia prima vittoria in assoluto in questa finale di Coppa del Mondo Italia-Brasile. Ma tu eri l'Italia o Brasile? Io ero l'Italia. Ok. Eri l'Italia, ma è stato del tutto casuale, cioè nel senso... Poi il mio amico era... così, giusto per sapere. No, però il mio amico essendo romanista, all'epoca i romanisti gli piaceva il Brasile, cioè nel senso c'era pieno di brasiliani nella squadra, quindi... Falcao, sì, sì. non c'era solo Falcao, però va bene. Comunque Falcao. Per dire Brasile. Cioè. Brasil. Sì, poi ce l'hanno sempre avuto sto legame, insomma, diciamo, col Brasile, con i brasiliani, sono sempre piaciuti. Comunque, e lui diceva il Brasile e alla fine io tiro questo calcio di rigore, che succede tutto in una piccola frazione di secondo, quelle frazioni di secondo che spezzano vite poi fondamentalmente nella maniera più drammatica possibile, ossia questo calcio di rigore si insacca violentemente nella porta avversaria certificando la vittoria dell'Italia e io in un momento di gioia incredibile mi sono sdraiato per terra esultando e sotto di me c'era disintegrato. Sotto di me c'era tutta l'Italia e il Brasile rimanenti disintegrati, quindi non c'è niente di più fragile di quelle cacchie di figurine del subbuteo, basta che le guardi male ti rompono, porca miseria, si sono sfrantucate gambe, braccia, cose veramente, una scena che neanche nei più... Ed erano del tuo amico. Ed erano del mio amico, chiaramente. Io ancora non ce l'avevo, cioè era la prima volta che vedevo questa cosa meravigliosa, era una delle prime volte che vedevo questa cosa meravigliosa e quindi si è dipinto nello sguardo del mio amico, oltre il disprezzo per aver perso, anche l'odio per avergli distrutto le due squadre che aveva, perché poi c'era solo quelle due squadre, poi la blu e la rossa che erano quelle dentro nella competizione. Sì, no, lui ce l'aveva, proprio Italia Brasile ce l'aveva, no, ma in realtà lui ce l'aveva diverse, quindi le ha comprate, sì, perché lui ce l'aveva la blu, la rossa, più ce l'aveva la Roma, il Liverpool e l'Italia e il Brasile, quindi poi alla fine cioè, abbiamo fatto sto torneo così di persone, squadre a caso, a caso. Sì, cioè, la Russia chiaramente, poi che ne so, la blu era la Jugoslavia, metti le ipotesi, c'era la Jugoslavia, allora. E quindi praticamente questa cosa è finita in tragedia, cioè è finita con questa scena che era una spremuta di sangue un po' simile a quello che tu vedi in tanti film americani dove c'è sta morte e devastazione incredibile. E tra l'altro è stato solo l'inizio, cioè è stato l'inizio perché questa cosa non è stato l'unico esempio di una cosa del genere, cioè la morte e il subbudio si sono accompagnati negli anni ripetutamente, ma anche per motivi pratici, cioè nel senso, come diceva giustamente Carlo, Stipo Pazzetti, se allora mai giocare al subbudio su un tavolino, mai, perché se tutti cadono si disintegrano, morto cade, anche morto ci può anche stare, perché cade da 100 metri d'altezza per lui e quindi giustamente muore, però diciamo che mai gioca, e quindi il posto ideale per giocare al subbuteo è per terra, anche perché poi io essendo sempre un po' maldestro, quindi cioè, quando c'erano sti pupazzetti, cioè, ma veramente quanti ne avrò acciaccati, io non lo so, però, e finisco poi questo racconto, reso, vabbè, a parte aver fatto pace col mio amico, io ho ricomprato il Brasile o l'Italia, non mi ricordo, una delle due, insomma, vabbè, comunque, scusa, te le ricompro, no, guarda che hai fatto, e poi lui ci aveva pure provato a rincollarle, però le colle allora facevano un macello. No, ma a parte che si scolorivano, si squagliavano, e poi perdevano comunque il bilanciamento, perché all'epoca c'era l'Uhu Attack, ve lo ricordate? Quello giallo che non incollava un cazzo praticamente, tu ne mettevi un quintale. C'è ancora, credo, faceva un quintale. Sì, però all'epoca era l'unica colla che esisteva, io mi ricordo, cioè, che mi ricordo io. A parte la coccoina da scuola e la cosa c'era? Quella incollava ancora meno. Meno, esatto. Dai. Salutiamo Andrea Trevisan che si è unito al gruppo, ci fa veramente piacere. Ho imparato a stirare grazie al subbuteo, grazie, vedete, questa è una bella notizia, perché se il campo non era ben stirato era un odore, beh, certo non si poteva giocare, c'erano i tossetti, cioè era praticamente impraticabile, però ecco, la soluzione che avevamo trovato molti di noi è quella di avere comunque il compensato con il telo attaccato e poi lo riponevi con le puntine nell'armadio, con le puntine. Sì, con le puntine, chiaramente, certo. Puntine verdi, beh dai, adesso non esagerare, perché sono adesso No, aspetta, all'epoca le puntine non erano colorate, erano di metallo con la che si piegava la punta e basta, erano di ferro le puntine. Cioè, le colorate sono arrivate anni dopo. C'è Gianluca Mattei che giustamente ci dice la coccoina. Allora, la coccoina, ragazzi, era una cosa brutta e pericolosa. Cioè, io mi ricordo a scuola la coccoina, tu l'aprivi, io l'aprivo soltanto per piazzarci il naso dentro. Proprio la sniffavi a rotta di collo fino a che non sentivi più niente, cioè neanche più l'odore della benzina sentivi. Ma cioè, io non lo so se era fatta apposta quella cosa, se era voluta o non era voluta, però ragazzi, era, cioè, una droga veramente. Io, come facevi a non sniffare la coccoina? Cioè, sì, ma è tutto, tutti ti diranno che se la ricordano perché la sniffavano. Eh beh, certo. Perché c'è questa roba di cocco che piacevole, era buono. Ma io non lo so neanche se cioè cocco, orzata, qualsiasi cosa potesse sembrare, era questo odore dolciastro che veramente entrava nel cervello. Io non riuscivo a smettere. Comunque, vabbè, il mio amico usava l'Attack, alla fine comunque ti ho detto, un po' il giocatore si squagliava, perdeva già, ma comunque riparare il giocatore del subbuto era una stupidaggia, cioè nel senso, perché perdeva completamente il bilanciamento, cioè ovviamente quei pupazzetti, per quanto delicati fossero, erano costruiti per essere bilanciati, no? Quindi, esatto. E vabbè, comunque. Ma costavano tanto? No, la squadra non era eccessivamente costosa. Beh, comunque tutto quello che riguardava il subbuteo non era economicissimo, però non era neanche una cosa improponibile. Se eri un po' più grandicello, c'avevi 14 anni, magari c'avevi la paghetta, insomma, diciamo che qualche squadra te la compravi anche. Poi chiaramente, e qui entriamo un po'. C'ho qua la scatola del Milan, sto guardando se c'è su il prezzo ancora. Ma si potevano comprare anche singoli di ricambio? Ma perché c'hai i pupazzetti del subbuteo? Tutta la squadra. Perché c'ho i pupazzetti del subbuteo? Ce li ho qua perché per caso, in realtà. Ma in realtà ce li ho perché avevo trovato in un negozio, perché io, come fa anche il buon Tomaiuolo, setacciamo i negozi dell'usato ogni volta che ci capita per prendere tutte le cose che da collezione che ci interessano, e in questo negozio dell'usato avevo trovato un tot di scatole del subbuteo. Io non colleziono gli omini del subbuteo, però non si sa mai, No, conosco una persona che invece è di collezione ed è una persona che conosco che è anche abbastanza famosa. Adesso vi dirò chi è, direte: ah, questa persona è Faso di Elio e le Storie Tese, Nicola Fasani. Ah, ah, esatto. Faso colleziona le squadre del Subbuteo. E quindi ne ho trovate 3 o 4, però quella del Milan era incompleta, e poi gli ho regalato quelle complete, questa qua è rimasta qua. Ho detto, boh, metterò qua gli omini per un po', perché è mezza, non è completa, c'ha, mi mancano 3 omini e il portiere, quindi si può usare, beh, come pezzi di ricambio. Beh, diciamo, diciamo una particolarità sulla questione delle squadre del Subbuteo, che le squadre del Subbuteo c'erano le squadre normali con le quali tu giocavi e c'erano le squadre da collezione. Ad esempio, io ricordo benissimo, ovviamente per questioni proprio affettive, la maglietta della Lazio del meno 9, cioè nel senso c'era, non c'era la classica, c'era la Lazio normale, quindi con sì, la maglietta celeste, e c'era la Lazio del meno 9 che era quella con l'aquila stilizzata sul petto, che era una cosa particolare perché in realtà, nonostante essere molto miniaturizzati questi pupazzetti, in alcune squadre, quelle da collezione, il dettaglio era incredibile, cioè nel senso, e a volte si facevano delle edizioni speciali proprio per squadre speciali o situazioni speciali, insomma. Devo dire, poi tra l'altro ci sono ancora le squadre, vedo su Amazon, comunque con 35 euro. Sì, sì. Cioè, ci sono sia quelle da collezione che quelle, sì, poi invece, sì, da gioco. C'è la roba, ancora giochi preziosi. Fatte oggi? Sì, sì. Anche a oggi, e ci sono, non è stato prodotto il Subbuteo, questo forse non lo sanno in molti, per circa una decina d'anni. È probabile, sì. Dal 2000 al 2010. Sì, per un periodo era sparito proprio dalla circolazione, infatti. Anche perché è passato un po' di diverse proprietà, insomma, perché il gioco era inventato in Inghilterra dalla Weddington Games, che però fu comprato poi dalla Hasbro, sì, che lo portò avanti fino al 2000. Al 2000 lo interruppe la produzione, tranne che in la produzione è continuata solo in Italia. Esatto, no. Fino al 2003 in Italia, perché in Italia c'era la ditta concessionaria locale, che era la ditta Edilio Parodi di Genova, che continuò a produrlo fino al 2003. Ma poi anche perché Edilio Parodi de Faride? Non ho capito. Perché mi ricorda quello del tonno. Ah, ok, ok. Vabbè, non so che c'era. Del tonno. Ad esempio, su Amazon, quindi questo ve lo ricordate, insomma, magari per il compleanno, esiste praticamente il Giochi Preziosi Subbuteo Lazio Edition, con tappeto da gioco, 2 porte, 2 squadre, 22 giocatori, ovviamente, perché da quello che vedo so una alla Roma e una alla Lazio, quindi c'è proprio assolutamente subito il derby, scatta sta cosa. Quindi vabbè, comunque dicevamo che alla fine, non essendo bravo a giocare a questo gioco, ma essendo molto affascinato da tutto il resto, perché poi esisteva proprio un catalogo del Subbuteo, e quando questo mio amico mi aveva dato questo catalogo del Subbuteo, io ho iniziato a sfogliare e vedevo c'erano delle cose incredibili, i fotografi, gli sbarramenti, le panchine con gli allenatori e i giocatori in panchina, i giocatori della rimessa del fallo laterale, gli steward, lo stadio, cioè lo stadio, c'erano tutti gli spalti, tutti gli spalti, ovviamente lo stadio a stile inglese, chiaramente, tra l'altro io lo ricordo ancora perché aveva tutta la struttura, se non mi sbaglio era rossa o grigia, ma dentro gli spalti erano gialli. Io mi ricordo sta cosa che era un po', cioè, faceva un po' schifo a guardarlo così, ma c'erano anche le curve, le semicurve, il secondo anello, insomma. Tutta, le luci, il tabellone, luci che sì, poi facevano, sì, cioè facevano ride, cioè nel senso illuminavano un cazzo, però diciamo, non c'erano ancora i LED, infatti c'erano queste lampadine mongole dentro che a malapena arrivavano sul telo, però facevano comunque scena, e il tabellone anche, cioè quello, il tabellone dove tu potevi scrivere, quelli con le lettere che si spostavano praticamente con la rotellina dietro, no? Quindi potevi scrivere, mettere il punteggio e tutto quanto. E c'erano ovviamente i tifosi che venivano venduti in 2 modalità: la bustina piccola con i tifosi già colorati, o la bustina gigante con i tifosi a pitturare. Con i tifosi da, da pitturare. La cosa bella è che questa, questa cosa è legata anche a un bel ricordo, poi tutto sommato, perché io mi ricordo che mentre io e mia madre ci perdevamo tantissimo tempo su questa cosa, lei mi aiutava a colorare i giocatori, anch'io mi mettevo là col pennellino, con i pennellini, insomma, con le cose, facevo le cose pure, cioè, tutto sommato lo facevamo anche abbastanza bene. Poi, siccome mia madre era molto brava a disegnare, mi faceva gli striscioni, tutti gli striscioni sullo stadio. Quindi c'avevo sto stadio completo con gli striscioni, le cose, tutti i personaggi intorno al campo e i giocatori in campo, ma ovviamente quando c'è tutto questo ambaradam il gioco è ingiocabile, perché devi... Certo, cioè, non arrivavi a tirare col dito. Esatto, insomma, quindi era solo da estetica, era proprio, a me piaceva fare le fotografie, certo. Proprio, fotografare tutte le cose, insomma, con la macchinetta fotografica di mio padre. E poi ovviamente questo momento di grande gioia, di grande conquista, insomma, avere lo stadio di proprietà della squadra, quindi tutti gli introiti, tutte le cose, i ristoranti e tutto quanto, e c'è stato un ennesimo atto terroristico. È venuto il tuo amico e ti si è buttato sopra. No, è peggio, la storia è peggiore, perché se vi ricordate, io l'altra volta quando parlavo della mia seconda grande passione, che è stata, anzi forse la mia prima vera passione, che è stata quella della pellicola, no? Quindi del cinema, del riprendere le cineprese, quindi io riprendevo, c'avevo le moviole a casa, facevo i montaggi, e praticamente quando c'avevo le macchinette, no? C'avevo anche dei modellini belli da macchina di carabinieri, con il mio amico ci mettevamo le micette dentro, facevamo esplodere, io con la cinepresa facevo sta ripresa all'alto come se era praticamente l'elicottero che assisteva, che ne so, un atto d'aggressione terroristica contro i carabinieri, e roba, cioè. E questa stessa sorte è successa anche al Subbuteo, perché poi in realtà a me mi piaceva costruire le cose, però c'era un momento in cui anche poi ero già grandicello tutto sommato, quindi c'è proprio un problema psicologico secondo me dietro che alla fine comunque scattava questa molla di follia totale. Prendevo la cinepresa e davo fuoco a tutto, cioè esplodeva tutto, rauti, cose, vincette, fischiabotti. Come Gomez della famiglia Adams, che faceva il modellino del trenino e poi l'incidente dei treni. Bravo. Più o meno è questo. Lo stavo raccontando fuori onda ieri sera alla fine della puntata di Ludico Forum, che proprio secondo questa logica questo mio amico un po' veniva, come posso dire, un po' subiva un po' questa mia deriva, diciamo, folle. E pur essendo molto più rigoroso lui, molto più ordinato, alla fine cadeva anche lui in tentazione di fare cose del genere. Io mi ricordo che lui aveva un modellino di un aereo dell'Alitalia, sarà stato 1,20 m, era gigantesco. E io gli facevo sempre la corte a sta cosa, ma dai, buttamone sotto, dai, famolo esplode, dai, damogli fuoco, simuliamo un incidente aereo, no? E lui no. Però vedevo sempre che stava sempre lì che tentennava, no? E allora praticamente una volta in cui lui si è distratto, quando è rientrato in camera, stavo già sul balcone con sto modellino in mano. L'ho aspettato, cioè sono stato bravo, non è che ho preso e l'ho buttato sotto perché non volevo che lui si perdesse lo spettacolo. Però no, la distruzione. No, ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? E io prendo sto coso, incidente aereo, e lo lancio, tra l'altro male, perché questo non mi ero accorto che c'erano i fili dei panni a quella di sotto praticamente, quindi st'aereo poi cade, rimbalza sui fili dei panni e cade male, pure in realistica come cose. Tutto sommato un gioiello come quello l'abbiamo sprecato in una maniera incredibile, insomma. Però ecco, io sta cosa per le cose che esplodevano e che prendevano fuoco ce l'ho avuta fino a 15-16 anni. Devo dire, è stato inquietante, devo dire, insomma, lo ammetto che è stato inquietante. E la stessa fine, insomma, è successa un po' al Subbuteo, dove ci avevo messo allo stadio un po' le stelline di Natale, un po' un paio di raudi, che alla fine sono scoppiate proprio le cose. aiuto. E mia madre giustamente sempre disperata, perché dice no, ma non... Perché lei sentiva... Mio figlio è malato. Sì, sì. No, ma lei, io penso portarlo. Che per un periodo è stata anche seriamente preoccupata. Però poi mi è passata, devo dire. Mi è passata. Ma era più. Sì, anche perché sennò a quest'ora non c'era più. Prima o dopo che ciucciavi le tette delle Barbie? No, dopo. Le tette delle Barbie era prima, ero più piccolo. Cioè, non, forse me ne rendevo conto fino a un certo punto, insomma. Niente, questo è un po' racconto di amore nei confronti di un dell'unico oggetto che nella mia vita ho collezionato e che ho costruito proprio con pazienza e metodo, perché in realtà poi e hai distrutto e che poi ho distrutto, sì, sì, assolutamente. Però questa cosa è successa, come dicevi, anche ai trenini, alle macchine, quelle insomma, i modellini, quelli seri. È stata proprio una costante per me il fatto di avere queste cose e riprodurre scene drammatiche della vita reale. Chissà, poi magari eravamo pure condizionati. Ma non lo so, io credo che ci sia questa mania, non è che sia proprio una mania, succede anche in altri casi, non so, uno che fa i castelli di carta, che ci mette 2 anni e mezzo, poi alla fine però è lui che va lì e lo tira giù, piuttosto che fai una costruzione importante di sabbia al mare, anche quegli artisti che fanno quelle robe là, sono proprio loro che poi alla fine lo distruggono, e quindi c'è questa, forse, non lo so, dentro di noi c'è questa voglia di fare e poi di disfare, forse per dire tanto lo posso rifare, sono in grado di rifarlo e quindi lo faccio e lo distruggo, è opera mia, io creo e lo distruggo. Ma guarda, lo dicevo l'altra volta quando abbiamo fatto la puntata dei Lego, anche se non c'entrava direttamente, io mi ricordo che c'avevo questa enorme scatola di costruzioni che era un castello, un intero castello con praticamente tutte le mura esterne, le costruzioni interne, le torri, cioè veramente. Penso che con mia zia ci abbiamo messo tipo una settimana a costruirlo. E bellissimo, era bellissimo. Cioè, proprio. Ero innamorato di questo castello. Però allo stesso tempo, nello stesso compleanno, mi avevano regalato un cannone a molla. a molla con la palla di piombo. Quindi tu mettevi la palla di piombo dentro al cannone, tiravi la molla, tipo il flipper praticamente, pim! Sì. E questa partiva. E dove lo tiriamo? Dove la tiriamo? Era l'assalto al castello, cioè era proprio automatico, cioè nel senso, chi mi ha regalato quel coso era una provocazione, tutto sommato, cioè nel senso, era un'istigazione a distruggere il castello. E mia zia, mi ricordo che non mi parlò per tanto tempo. Però è questo. Però il Lego, dai, possono rifare, si può rifare. Ma non era un Lego, non era un Lego, era proprio una costruzione non Lego, proprio fatta apposta per questo castello. Quindi una volta distrutto, era distrutto per sempre. Beh, diciamo che dovevi ricominciare da capo, sì, era tosta, insomma, perché era proprio seriamente danneggiato. Niente, Carlo. Niente, io il subbuteo ho una cosa assolutamente in comune con te. Cioè che ero completamente una pippa anch'io a subbuteo, non sono mai stato bravo a giocare a subbuteo, e lo scoprì anch'io da un mio amico, perché anch'io non ne sapevo. Subbuteo, se non mi ricordo male, però aiutatemi voi anche tu Davide e Roberto, non è che era molto pubblicizzato rispetto, sì, ad altri. No, io non l'ho mai vista la pubblicità del subbuteo, forse ne ho qualche volta su Topolino, cioè forse. C'era, ma era molto, mi pare qualcosa, ma rispetto ad altri giochi era molto meno pubblicizzato il subbuteo. Era quindi anche molto più di nicchia, però c'era, cioè, particolare, sì, i ragazzini, sì, magari si annoiavano anche. Comunque era un gioco complicato, Io l'ho conosciuto come gioco per i grandi, io ero piccolo ma ci giocavano i grandi a questo gioco, non ci giocavano i piccoli. Sì, infatti io non lo conoscevo, è uno di quei pochi giochi che non ne sapevi l'esistenza fino a quando non lo vedevi a casa di qualche tuo amico e scoprivi che esisteva questo gioco del subbuteo. Ovviamente, essendo calcio, Italia calcio, poi soprattutto gli anni 70-80, non era come adesso, cioè il calcio era lo sport unico italiano, esisteva solo uno sport. Beh, sì, sì, calcio. Oggi un po' di meno, ma più o meno ancora così, No, adesso molto di meno, guardo i miei figli, non c'è confronto rispetto a come era il calcio quando eravamo piccoli noi, secondo me almeno. Sì, no, sì, no, è vero, no, è vero. Esisteva solo il calcio, io non mi ricordavo quasi nessun altro sport praticamente. Praticamente sì. E niente, poi vabbè, la bellezza del subbuteo è anche che è molto facile, le regole sono semplicissime, a parte che un po' te le puoi mezzo inventare, perché poi c'erano tutte le variazioni del subbuteo, che di solito variavano a seconda del proprietario che voleva vincere, che diceva no, ma guarda che devi colpire 3 volte per 2 meno 5, no, hai sbagliato, no, adesso tocca a me, faccio gol, capito? Era sempre così, però diciamo che le regole base erano decisamente semplici, quindi capivi velocemente come si giocava a subbuteo. E poi devo dire la verità, perché questi omini, queste miniaturine, è vero che, come ho detto prima, cioè bastava che le guardavi male, si rompevano, no? Le guardi storto, partiva un braccio, un piede, la testa soprattutto. Ma erano anche molto belle. Erano, voi ve le ricordate le figurine del Subbuteo? Cioè, comunque gli omini piccoli ma dettagliati, completi, con i capelli, la maglietta, pitturati bene, sì, le mani, le gambe, erano anche belli da vedere, quindi poi ti veniva probabilmente la voglia di collezionarle, perché erano effettivamente delle, poi come hai detto tu c'erano anche quelle speciali che erano ancora fatte meglio, più dettagliate, poi così piccoline eppure molto molto dettagliate. Però io ovviamente, essendo una pippa completa, sì, ci giocavo a casa dei miei amici, ma non mi sono mai appassionato, perché continuavo a perdere, dicevo vabbè basta, cioè, ok, guardo gli altri che giocano, ma io non, io per assurdo ero, perché in realtà la simulazione del calcio da tavolo non c'era solo su Subbuteo, ce n'erano n mila varianti. Vabbè, quella che abbiamo giocato tutti è il calcio balilla, cosiddetto calcetto da, sì, sì, sì, da bar e da tavolo. Vabbè, quello sì, ecco, però quello insomma è quello, sì, c'era anche la versione domestica, diciamo, anche di quella, la versione piccola che si rompeva subito. Sì, diciamo che il Subbuteo aveva più intenzioni realistiche, no? Nel senso, cercava proprio di essere, sì, proprio una emulazione. Era quasi un gioco di ruolo, praticamente. Sì, sì. Il Subbuteo, sì, aveva più regole, sì, in effetti, la linea di porta dove devi stare attento, insomma, forse per questo non riuscivo a giocare. No, no, ma era un gioco che, per quanto magari le regole erano intuitive o le potevi modificare, era comunque complicato, cioè nel senso... Perché era, sì, sì, una versione, cioè c'era le bocce, c'era il biliardo, c'era la tattica del calcio, c'erano le regole comunque abbastanza stringenti, c'era anche un tempismo nel quale dovevi fare determinate cose. Quindi, cioè, il gioco di per sé era un gioco complicato, quindi ci stava che non era un gioco per ragazzini, ed era anche comprensibile. Ma anche io, quando ero meno ragazzino, comunque per me era un gioco che, cioè, non c'avevo la testa per giocarci freneticamente come ci giocavano quelli che ci giocavano seriamente. E la cosa che mi aveva affascinato, appunto, quando mi è capitato il catalogo fra le mani, maledetto quel giorno, era proprio il fatto che c'era tutto un universo intorno, che era il collezionismo. Quindi, certo, secondo me, la genialità del Subbuteo sta proprio in questo, sta nel fatto che era sì un gioco, ma se proprio non dovesse essere un gioco, aveva anche quest'altra alternativa, e secondo me ha funzionato questa cosa per molto tempo. Poi ricordiamo che di Subbuteo sono uscite anche le variazioni, cioè tipo il rugby c'era anche se era inguardabile, cioè nel senso c'erano delle cose. Quelle io non me le ricordo proprio, giuro, non me le ricordo. No, c'erano il rugby sicuro, non so se poi c'erano anche altri sport di squadra, però in generale, insomma, no. Tipo il basket, dici? No, no, il basket niente. Non credo, però era un po' come Andrew Spencer di Commodore, che a un certo punto diceva: ho fatto il calcio, ma faccio pure gli altri sport, e magari era una merda, insomma, cioè nel senso comunque. In realtà il Subbuteo, secondo me, è nato proprio per quello, proprio perché da quel punto di vista, anche come regola di gioco da tavolo, il calcio si prestava veramente. Gli sport con una variazione di regole molto più articolate, secondo me, diventava un po'... Cioè, per esempio, quando la mischia nel rugby, nella versione Subbuteo c'era questa specie di cerchio, praticamente, nel quale tu dovevi mettere tutti quanti i giocatori, e poi non so che tipo di mossa dovevi fare per vedere chi usciva vincente dalla, perché ovviamente io non l'ho mai visto, ho visto solo le foto, non l'ho mai visto dal vivo, capito? Quindi, ecco, diciamo che l'intuizione stava nel fatto che comunque tu porti uno sport popolarissimo sulle tavole dei ragazzi, e i ragazzi ci andavano matti per questo. Però, secondo me, vabbè, diciamo che, insomma, alla fine, ecco, cioè io ho visto, come hai detto te, ci sono state tantissime varianti, ma poi alla fine, secondo me, il fattore collezionismo è stato abbastanza determinante fino a che è durato. Sì, c'è da dire che quelli appassionati del Subbuteo sono stati, c'erano tanti, parecchi, e come tutte le cose che provoca passione del collezionismo, ha poi portato a creare delle vere e proprie associazioni e movimenti. Addirittura ho letto che esiste in Italia un movimento, una specie di organizzazione che si chiama addirittura Old Subbuteo, perché sono persone che si ritrovano a giocare a Subbuteo, ma solo nella versione originale degli anni 70-80, fatta con materiali dell'epoca oppure riproduzioni ma fedelissime delle riproduzioni, perché probabilmente le edizioni moderne del Subbuteo cambiano il tipo di materiale, cambiano ovviamente anche, probabile. La qualità dei giocatori, dei modellini delle squadre, insomma. Ma in realtà c'è una federazione. Sì, sì, no, ma ancora oggi è recente, esiste, però, sì, sì. La federazione è recente, per assurdo, per quanto vi possa sembrare strano. In realtà prima c'era quella vecchia, e la Federazione Italiana Sportiva Calcio da tavolo, che però, come stavo dicendo prima, siccome esistono tanti giochi da tavolo di calcio, il calcio balilla, e poi ce ne sono altre varianti. Io, per esempio, mi ricordo anche, ve lo ricordate, il gioco di calcio dell'Arco Falk? La ricordo, ma non mi ricordo il gioco di calcio. Che era quella specie di campo di calcio di plastica fatto con le buche, in pratica. Ah, sì, dove sì, i sì, giocatori sì, erano dentro nelle buche con le molle, sì, e il pallone cadeva nella buca. Quello c'era pure il basket di quella variante lì. Quello me lo ricordo. Sì, perché facevi schizzare la pallina. Sì, sì, quello me lo ricordo. Esattamente. Che poi c'era anche la versione. Anzi, io mi sa che ce l'avevo anche. E forse a San Savino da qualche parte c'è ancora. La sala giochi, è vero, anche sì, quello che era, io me lo ricordo più sala di giochi di vetro, cioè, o di plastica. Bravo, esatto, la cupola, sì, bravo, per non far andare fuori la palla. Vabbè, comunque, quindi questa federazione sportiva gioco a calcio da tavolo c'aveva dentro tutti, e nel 2013 aveva creato il circuito Subbuteo specifico per il Subbuteo. E invece la Lega Nazionale del Subbuteo è nata nel 2018. Ed è nata a Roma, tra parentesi, quindi Simone, siete più voi romani che giocate a Subbuteo. No, vabbè, Roma, la Lega Nazionale Subbuteo, che rappresenta il settore del gioco del Subbuteo, è addirittura affiliata al CONI, addirittura, quindi quanto pare molto, è come dice Simone, è proprio il gioco di ruolo del calcio, probabilmente, il Subbuteo, se vogliamo dare una definizione, sì, l'ha azzeccata bene Simone, ecco. Comunque nella chat questo. Walter ha messo delle foto, di cui la seconda foto in particolare è meraviglioso, perché questo nella ricostruzione di uno dei modelli dello stadio praticamente ha messo una striscia LED sia da una parte che dall'altra nelle tribune centrali, e devo dire che fa il suo sporco effetto, insomma, tutto sommato. No, sono molto belli, infatti quando li ho visti ho detto sembrano quasi vere se le guardi un po' così di traverso, poi in realtà se zoomi, certo. E, no, invece io di questo gioco qua, come avrete capito, non ho avuto molta esperienza, e difatti devo dire che le ha messe mia, Davide le foto, scusa Davide, pensavo che l'avesse Walter. Sì, ma nessun problema. Le foto, buonanotte. A casa mia praticamente avevo due fratelli più grandi di me, e non è mai stato preso, quindi nessuno l'ha mai preso, non ha mai girato a casa mia, tranne una volta che appunto degli amici dei miei fratelli sono venuti a giocare a casa mia, hanno portato tutta l'attrezzatura, io lì in quell'occasione l'ho visto, e vi devo dire la verità, è l'unica occasione in cui l'ho visto, cioè quando è venuto a casa mia da parte di qualcun altro, ma in casa di tutti gli amici che ho avuto nessuno aveva il Subbuteo. Quindi forse io l'ho perso, l'ho saltato, non l'ho amato, non l'ho desiderato, perché non l'ho mai visto, fondamentalmente. Lo vedevo forse nei negozi di giocattoli come confezioni, però io ho avuto mi è capitato così nella vita, di vederlo pochissimo, se non in una sola occasione a casa mia, e invece i miei fratelli giocavano probabilmente a casa dei loro amici, che non erano i miei amici ovviamente, perché eravamo di fasce età diverse. E quindi io non li ho visti, per quello che dicevo, che secondo me era un po' forse nel mio periodo non era così gettonato, forse, non lo so, o forse nella mia zona, non saprei cosa dire a riguardo. Non era, io veramente di persone che hanno conosciuto o hanno giocato al Subbuteo ne ho conosciute poche in generale, So che oggi magari ai ragazzi della mia età, comunque, se tu ricordi il Subbuteo, alcuni se lo ricordano anche magari con piacere, però diciamo che ribadisco l'intuizione del gioco e l'intuizione del collezionismo, anche perché il gioco di per sé comunque non era user friendly, insomma. Era un gioco che o lo giocavi veramente a cazzarella e non te ne fregava niente, ma se lo volevi giocare magari con gli altri dovevi dovevi imparare a giocarci ed era comunque, c'era un livello di ingresso abbastanza elevato, ecco, da questo punto di vista. Sì, era come un gioco di ruolo, come giocare a Risico, insomma, non era mettersi di facciare la partitella, no, dovevi impegnarti e magari durava anche del tempo, non so. Tra l'altro tu hai messo, tra le foto che hai messo, c'è, cioè, incredibile, questa è veramente una cosa da collezione, perché è l'Italia dell'82 e se tu guardi... Sì, ne riconosci subito, la riconosci. Riconosci i personaggi, cioè nel senso, nonostante riconosci i giocatori, insomma, è veramente incredibile anche il dettaglio della maglietta, il colletto, cioè veramente... Sì, se... considera che, ecco, dalla foto non si capisce molto, ma i giocatori sono alti neanche 2 centimetri, ecco. Sì, ho visto la palla che era grossa come loro. Sì, sì. I giocatori sono molto piccoli, quindi quella foto lì ingrandita dici vabbè, però quando li vedi dal vivo così piccoli, quel dettaglio lo noti ancora di più, perché ovviamente sono molto molto piccolini le statuine, insomma, i giocatori, i pupazzetti, dai, chiamiamoli pupazzetti, esatto, i pupazzetti. Roberto, eccolo. Allora, io ho giocato a Subbuteo. Io ho, fra le varie psicosi che ho quella di mettermi tantissimo, ma per un breve periodo, a fare qualcosa. E quindi uno di questi brevi periodi dove ho giocato molto Subbuteo è esistito. L'ho conosciuto a casa di un amico, diciamo che era una famiglia benestante nel mio quartiere, che quindi aveva tutte le cose che all'inizio erano un po' più costose per prima, quindi aveva l'Intellivision con tutte le cassette e tra le altre cose aveva il Subbuteo con le varie squadre, organizzava tornei e ad alcuni bambini, ragazzi, insomma, che erano amici, praticamente andavamo sempre lì a fare questi giochi un po' più di lusso, tra virgolette. E tra l'altro vendevano francobolli, monete, una cosa molto particolare. E quindi io l'ho conosciuto lì. Poi anch'io ho comprato prima il telo di cotone, poi l'Astropitch, poi alcune cose. E per un breve periodo devo dire che mi ci sono messo, mi è piaciuto. Sapevo giocare, nulla di fenomenale. Cioè, ad esempio, non ero assolutamente in grado di tirare le punizioni che scavalcassero la barriera, tanto per capirci. Cosa che è possibile con moltissimo allenamento. Però alzare la palla non era... molto facile, quindi serviva un certo, un certo allenamento. E è un gioco che mi piace moltissimo, è bello, sono belli gli oggetti, è bello il concetto, sono belle le regole, secondo me è molto divertente l'ambiente, quindi poter fare questi tornei è una di quelle cose che vale la pena ricordare, che mi piacerebbe, insomma, che non si perdesse. Perché molto probabilmente anche questa, come le altre cose di cui spesso parliamo, ormai è una roba per vecchi nostalgici, però invece è una cosa che secondo me merita molto. E il mio ricordo, comunque lo ripeto, almeno all'inizio, poi forse è un po' cambiato, era di una cosa abbastanza costosa che avevano in pochi. Da noi all'inizio ce l'aveva solamente questo ragazzo, poi un po' di altre persone l'hanno comprato. Mi pare di ricordare, adesso non voglio dire stupidaggini, ma anche perché insomma i prezzi erano un po' scesi. E come penso in tutti i quartieri ci sono, in questo caso, due ragazzi figli di una famiglia benestante, che però lavorava tutto il giorno, e quindi per far contenti i figli li riempiva di giocattoli, e i figli, non avendo i genitori spesso a casa, invitavano gli amici, per fortuna tra cui noi, e quindi noi potevamo comunque vedere queste cose. Sì, era molto più frequente in quegli anni che comunque, benestanti o meno, si andasse a casa degli amici. Sì, certo, però si viveva sempre in casa degli altri, quasi. Si viveva sempre in casa degli altri, ma questi avevano, non so, l'Intellivision con 20 cassette, una cassetta costava 90.000 lire dell'epoca. Sì, è vero. Adesso sembra quasi impossibile, ma 90.000 lire dell'epoca, non so, sono come 200 euro probabilmente. Beh, sembra quasi impossibile, mica tanto, perché tu non hai presente quanto costano i giochi della Switch, per dirtene una. Sì, della PlayStation 6. Quanto costano? 70-80 euro. Allora, a parte, beh, ma è meno, eh. A parte che no, non esiste la PlayStation 6, ho detto fra noi, però. Ah, 5, 6. Tu non sai quanto costa Ultima 1, Carlo. Vabbè, dai, mo, non cominciamo con questa cosa, che non c'entra niente. Comunque, il discorso è che proporzionalmente è vero che allora, rispetto a quello che era il valore dei soldi, di quello che è, insomma, sicuramente le cartucce e i videogiochi, lo stipendio medio, costavano veramente tanto. Però è vero che questa è stata una costante sempre, perché alla fine mi ricordo che, e se non mi ricordo male, Indiana Jones Fate of Atlantis, io ho pagato 140.000 lire, quindi alla fine sono i prezzi di oggi, cioè tutto sommato forse la differenza sta nel potere d'acquisto, che magari è cambiato, questo sicuramente. Comunque non è tanto questo il discorso, che alla fine il subbuteo, ecco, forse secondo me, un po' per ritornare a quello che diceva Carlo prima e un po' la testimonianza anche di Roberto, ha vissuto secondo me del passaparola più che della pubblicità diretta, perché in effetti io di pubblicità diretta non ho vista veramente poca. Mi ricordo qualcosa su Topolino sicuramente, però in generale non è che si vedeva mai la pubblicità del subbuteo, insomma. In video non ne ho mai vista una, cioè in televisione o cose del genere, e questo è una cosa abbastanza peculiare per una cosa che in realtà avrebbe potuto straesplodere, secondo me, visto e considerato il rapporto che c'è ovviamente in Italia, soprattutto col calcio, insomma. Non so che ne pensate voi di sta cosa. Però se parla qualcuno, forse sì, secondo me stavo parlando io. No, a parte che ho messo delle foto, non so se l'avete visto. Stavo vedendo, sì, sì, sì. Ho trovato la copia del, che non sapevo neanche che fosse esistito. La copia del subbuteo, praticamente, che è, quanto pare, questa azienda di Genova, quella che avevo citato prima, la Parodi, che aveva i diritti, che ha creato anche un clone che è identico praticamente al subbuteo, e l'ha chiamato Zeugo, che credo che voglia dire gioco in genovese, se non, sì, esatto, non ho, sì, capito, sì, male. Vabbè, questa è giusto una parentesi così divertente, ma bella merda. È uguale, identico. Comunque, riguardo alla parentesi, alla non diffusione, è vero che, come ho detto prima, infatti l'ho notato anch'io, il fatto che non fosse tanto pubblicizzato, ma non so se fosse stato pubblicizzato di più avrebbe avuto più successo, perché comunque, come dicevi tu, è vero che io ho detto che era un gioco semplice da capire, perché alla fine dovevi col dito tank, no, colpire l'omino, però le regole che c'erano dietro, insomma, la simulazione, cercare la simulazione del calcio, che poi mi è venuta in mente un'altra, se non sbaglio, c'era un momento, però Simone tu lo saprai sicuramente che hai giocato più di me, in cui potevi disporre i giocatori sul campo a seconda degli schemi, tipo anche 4-4-1, sì, sì, sì, eccetera, cioè proprio da allenatore, no? Quindi disporre i giocatori. Beh, già tu quando disponevi al calcio d'inizio la squadra, la disponevi a seconda del modulo che decidevi. Ma c'era il calcio d'angolo, che avevi, sì, la, sì, possibilità, sì, di disporre, sì, i, sì, giocatori anche sul calcio d'angolo. Sì, sì, sì, sì, mi, sì, ricordavo. È vero, è vero, è vero. E quindi è un gioco che comunque richiedeva una certa strategia, una certa complessità comunque di gioco, che non è immediata, insomma. Prima ha citato, forse sei stato tu Davide che hai citato il Risico, in realtà, sì, sì. Il risico è più semplice del subbuteo, se vuoi, da giocare, quindi è più popolare, perché il subbuteo, sì, lo reputo più complesso rispetto, sì, sì, al Risico. È più immediato il Risico, ma magari devi essere, sì, strategico ed essere bravo a giocarci, però il gioco, sì, ha un ingresso più accettabile rispetto al subbuteo. Tra l'altro Davide in chat ha messo anche uno spot del subbuteo in televisione, sì, recente, però recente, è già del 2003, capito? Cioè, nel senso, comunque è una roba, sì, sì, roba brillante. Eccolo lì, questa era la pubblicità che c'era su Topolino, bravo, questa che aveva fatto, l'ha, esatto, messa adesso Roberto, esatto, quello me lo ricordo. Grande. Il calcio a punta di dito, esatto. Tra l'altro, come diceva Roberto, in effetti c'erano le persone che facevano le palombelle, facevano i pallonetti, cioè, della sì, Marvel. Perché aveva due livelli di difficoltà su Butti, uno quello strategico e l'altro quello proprio di bravura tecnica, come il calcio alla fine. Quindi è per questo che giustamente tu l'hai definito gioco di ruolo del calcio, perché hai tutti e due i livelli di complessità del calcio, sia quello strategico, allenamento, eccetera, posizionamento della squadra, sia anche quello proprio tecnico di bravura proprio fisica nel sì. maneggiare chi spizzava, faceva l'effetto, chi faceva il pallone. Poi c'era anche quello che era bravo a parare col portiere, quello che era meno bravo a parare, perché anche lì ci vuole i riflessi, eccetera. Quindi insomma c'era dentro veramente una buona complessità. Tra l'altro in questa pubblicità di Topolino, se tu vedi la prima riga, dice proprio il vero Subbuteo, quindi già evidentemente già c'era questione dei cloni del Subbuteo. Vai, no, continua. Zuego. Stavo dicendo una cosa ma me l'hai fatta dimenticare adesso, sono vecchio, mi sono già scordato cosa stavo dicendo. No, hai ragione. Buonanotte. Comunque quest'ultima foto era proprio lo stadio che c'avevo io, questo. Cioè proprio questo qui. Sì, infatti si vedono le cose gialle, esatto, le tribune gialle. Vedi che le tribune gialle, esattamente, sì. Quello che è andato incendiato, insomma. Sì, esatto, la tragedia. Ma poi guardate, ma almeno hai fatto delle riprese o no? Sì, sì, guarda, da qualche parte sicuramente ci sarà pure la bobina da qualche parte, se non avrà mai. Però guardate i riflettori, no? Che erano sti tralicci proprio da anni 50, proprio se andate a vedere era concettualmente molto vecchia come cosa, però insomma faceva però io non ho idea dei costi, però secondo me era roba che costava tanto. No, fare lo stadio intero lo facevi un po' per volta, non è che andavi lì e te compravi lo stadio, era tutta una cosa che tu facevi nei mesi, magari ci mettevi anche un anno, compravi una volta un pezzo, tanto poi in realtà lo stadio era a blocchi praticamente, era completamente modulare e non si attaccava neanche, cioè nel senso tutto sommato dopo che tu l'avevi assemblato lo potevi disassemblare con tanta semplicità, cioè non era assolutamente quello, però ecco lo compravi un pezzo per volta piano piano, poi compravi la tribuna, poi compravi i pupazzetti da metterci dentro. E devo dire è stato un lavoro lento però piacevole, perché è stato proprio sto legame che si era creato con questo gioco. Penso che io poi ero uno che si rompeva le balle abbastanza facilmente, devo dire la verità, in generale. Quindi questa è una foto. Ma l'ho trovata di un negozio, per la foto d'epoca. Foto d'epoca proprio questa, sì. Anche perché uno zio che avevo io, vedi, questo per esempio ho messo la tribuna solo dietro la porta, che tra l'altro è proprio la cosa che rende ingiocabile il gioco, secondo me, perché ok, tu puoi giocare se c'hai le tribune basse, in realtà puoi giocare al gioco, però il portiere lo devi manovrare da dietro, infatti vedi lui con la mano come sta messo, cioè è un po' complicato. No? Cioè, chiaramente, e dicevo, c'era un mio zio che mi raccontava che in realtà quando lui era molto giovane c'era una sorta di Subbuteo, probabilmente era il Subbuteo stesso, dove in realtà i pupazzetti erano solo la parte, solo erano degli anelli praticamente metallici, quindi erano delle pedine praticamente, fondamentalmente, però il concetto del campo, del telo e tutto quanto era più o meno la stessa cosa, forse mancava la... Cioè, questa è una copia d'epoca quella che ha messo Roberto adesso, questa che ha messo, giusto Roberto? Sì, è un clone. Un clone d'epoca, quindi ce ne sono stati tanti. Sì, ho trovato un video invece incredibile di Staglio e Olgio. E giocano su Budeo. Dove gli cementano i piedi dentro a degli affari a basamento. Tipo su Budeo. E diventano su Budeo umano. Ante litteram, però, che chiaramente è assolutamente inconsapevole. No, beh, non ante litteram, perché guarda che su Budeo è molto vecchio come invenzione. No, io ho letto del 47. Il 47. 47, quindi stiamo parlando veramente del. Vabbè, però se guardate. Però Staleolio è prima del 47, soprattutto sto filmato, penso che sia proprio. Però, se non ricordo male. Del 36, è del 36. C'è una. Esatto, in realtà allora, il Subbuteo nel 47 il Subbuteo, ma era basato su un gioco già esistente precedentemente. Può essere, sì. E quindi comunque era, io non credo che nel 37 c'erano gli omini per come li conoscevamo noi, sono abbastanza dubbioso. Comunque nel film Allegri Gemelli del 1936 i due attori comunque sembrano essere proprio due pedine del Subbuteo. cioè, se andate a un minuto del video vedete proprio una roba. Eccolo qua, sì, infatti. Era un gioco esistente già negli anni 30 che si chiamava New Footy, questo gioco degli anni 30, quindi esisteva già da un bel po' di anni, quindi può essere che fossero ispirati già a questo gioco qua, quindi vabbè, è la curiosità bestiale sto film qua di Staglioglio. Chissà se c'è un significato intrinseco che noi non sappiamo, c'è un complotto dietro queste immagini. Per me c'è un complotto, non vorrei dirlo. Sì. C'è sempre un complotto da qualche parte, ricordatevelo. Adesso il film non l'abbiamo visto tutto, ma sono sicuro che dopo ci sono dei raudi. I raudi, no raudi, che so i raudi? I raudi, i raudi. Oh, no, ho detto raudi. No, da noi si diceva rauti con la T. No, a Milano raudi con la D. No, da noi erano rauti proprio con la T, insomma. No. Poi dall'altro c'era un famoso politico del movimento sociale che si chiama Raudi. Adesso controllo chi ha ragione. Anche Sticazzi, tutto sommato. Insomma. Ah, li chiamavano allora, anche Sticazzi? Su il dizionario italiano c'è scritto Rauto. No, ma questo ha fatto una cosa tipo quello che ho fatto io. L'ultima foto. Che so, che è fumo, che è? Scusate, che ci sta? I fumogeni, grande. I fumogeni per fare, sì. Grande stima assolutamente, cioè, veramente. Era simulazione totale proprio, anche chissà che audio aveva. Altro che radiolina, eccetera, ha messo il rumore digitalizzato della partita. Sì, e i lampioni sono a LED, si vedono, sono sì, fatti certo. Bene. Cioè, i lampioni sono quelli, solo che dentro ci ha messo i LED. Cioè, esatto. Messo i LED, sì. È lui che ce l'ha messo. L'ha modernizzato. Sembra più realistico. Bello però quello. L'ultima in foto è veramente bello. C'è anche scritto non toccare, per cui roba italiana. L'esposizione sicuramente. Chissà se esiste un museo del Subbuteo. Adesso lo voglio cercare. Museo del Subbuteo. Magari esiste da qualche parte. Andiamo a fare un documentario al museo del Subbuteo. Perché dici documentario al museo del Subbuteo? Perché? No, io no. Comunque, se vuoi possiamo raccontare dove siamo stati durante questo weekend. Lo puoi anche raccontare, anche brevemente, perché magari lo racconteremo. The Subbuteo Museum, ragazzi. Cazzo, scusate. Scopri la storia del Subbuteo. Attenzione, stai in Italia. Vai, tu racconta. Io tanto studio questa cosa qui. Tu stai già praticamente sto già organizzando. Subbuteo è un marchio registrato di proprietà della Hasbro. Questo sito copre un'esposizione collezione privata, quindi non è una foto, i contenuti sono di legittima proprietà, va bene. Sì, ma ci dici dove sta sto cazzo di cosa? Vabbè, vai, scusa, non ti interrompo più, giuro. Roberto, Carlo, vai. Questo weekend siamo andati ad Avezzano per diciamo documentare il museo che ha aperto abbastanza recentemente, dedicato alla storia dell'intrattenimento elettronico e quindi il videogioco in maniera principale, predominante, anche se in realtà con intrattenimento elettronico si intende anche il flipper e il gioco elettromeccanico. È stata, diciamo, una bella scoperta, una bella gita, il museo decisamente interessante, come vi confermerà anche Simone, e niente, tra un po' di mesi probabilmente vedremo questo. A gennaio è prevista la trasmissione di questo mini documentario sui nostri canali YouTube di Archeologia Informatica, e quindi quello lo attenderemo tutti con ansia, e penso che sarà un discreto successo, dai, mettiamola così. Beh sì, no, più che altro assolutamente, come dici tu, poi comunque anche nel documentario stesso, in realtà è un'esperienza importante, perché al di là di tutto io consiglio di andare ad Avezzano per le persone che hanno la possibilità, nel senso che per chi è nel centro Italia, diciamo che si raggiunge abbastanza facilmente, sono comunque 40 minuti da Monterotondo, 50 minuti da Roma, cioè nel senso è una cosa che si fa anche in una giornata volendo, per chi viene da zone più lontane sono comunque delle accommodation molto, molto carine, la gente è veramente ospitale e vale la pena assolutamente e vederlo. Si mangia bene e si mangia da paura tra l'altro, e tanto. Tanto. Poi si offendono, sai come funziona, no? La cosa bella è che sono 1000 metri quadri di museo fitti, cioè non è che ci sai c'è spazio a buffo, ed è, essendo il museo dell'intrattenimento elettronico, ti fa capire quanto il discorso prescinda dal semplice videogioco, insomma, e merita di essere visto. Penso che sia un caso, forse ce ne siano pochi nel mondo, insomma, assolutamente con questa sì. Configurazione così... qua. Con questa quantità di materiale acceso, funzionante e utilizzabile soprattutto. Tra l'altro, anche se glielo dovete chiedere chiaramente, se ve lo fanno vedere, perché comunque immaginate insomma la delicatezza della situazione, c'è un computer space, anzi due computer space. Tre, se non ho capito male, due funzionanti. Sono tre, anzi sono quattro in tutto, perché ce ne sta anche un altro da un'altra parte, però... sono due sicuramente funzionanti che noi abbiamo avuto l'opportunità non solo di vedere ma anche di poterci giocare, e devo dire che ragazzi, sapendo la rarità e l'importanza anche dal punto di vista dell'impatto storico, devo dire che questa cosa fa il suo effetto, cioè sei veramente indietro nel tempo in quel caso, ti trovi di fronte è come trovarti un reperto storico e poterlo maneggiare. Ah, tra l'altro, ecco qua, del Subbuteo c'era il rugby e il cricket, vedi? Scusate, non c'entra niente, però sei riuscito a trovare, sì. Tra l'altro sto museo deve essere veramente veramente interessante. Comunque, andateci ragazzi, perché vale la pena. E a gennaio, insomma, faremo uscire questo mini documentario e continueremo la nostra progettualità verso una cosa, insomma, alla quale ci teniamo, e forse chissà, insomma, che riusciamo a trovare il modo, insomma, di poterlo fare. Comunque, detto questo, io direi che non so se volete aggiungere altro sul Subbuteo, penso no. Io ho voluto, diciamo, mi sono un po' impossessato di questa puntata perché il Subbuteo è sicuramente una cosa che ha fatto parte della mia gioventù. Rispetto a tante violenta naturalmente sono d'accordo, rispetto a tante altre cose alle quali sono state affezionate ma magari sono state passeggere, questo ha avuto un'importanza più indelebile, diciamo, nella mia vita. Voi, perché comunque è stata una cosa che mi sono costruito forse per la prima volta piano piano con calma da solo, e vuoi perché comunque è una cosa che ho condiviso anche con mia madre che si divertiva anche lei comunque a darmi una mano a costruire questo piccolo cosa, anche se lo faceva da una parte super volentieri perché era una cosa che faceva con me, dall'altra magari malvolentieri perché era una rottura dei coglioni che si trovava dentro la stanza e che non poteva essere smantellata, insomma, fino a che poi dopo non sono successi noti fatti storici documentati, strage allo stadio, esatto. Tra l'altro c'era uno, un film americano, no? Devo ricordare quello che sparava sulla gente allo stadio, vabbè non mi ricordo neanche come, se no, orrore allo stadio, paura allo stadio, una cosa del genere. Comunque, comunque volevi fare, non volevo fare la stessa cosa, peggio, volevo fare peggio cosa. Chiaramente, esatto. quindi insomma, emulatore, sei proprio un emulatore di cose brutte, quindi è sempre bello ricordarsi il fatto che è un percorso che uno fa con delle persone, perché come tutte le cose che riguardano insomma la giocosità, comunque in qualche maniera in quell'epoca era facile che la condividevi con qualcuno, e a volte facevi danni, a volte i danni te li facevano a te. E tra l'altro diciamo, e qui chiudo, questa storia del Subbuteo ha avuto un epilogo drammatico, ulteriormente drammatico, proprio in epoca recente, tipo 3 anni fa, perché l'ultima squadra di Subbuteo che me era rimasta è stata distrutta da Matteo. Ah, che bello, come funziona? Bravo. E porco, e allora vabbè, insomma, quindi vedete che cioè, alla fine il Subbuteo è legato a momenti di bruttezza e di bellezza tragedia. Allo stesso tempo distruzione di massa. Mi faceva piacere raccontare questa storia perché comunque poi fa ridere comunque per certi versi, e l'altra comunque è stato un tassello importante, perché oggi magari nessuno o tanti non lo conoscono, ma veramente è stato un gran bel gioco che in un periodo ha fatto il suo, insomma. Carlo, Davide e Roberto, per i saluti. Va bene, o se volete aggiungere qualcos'altro. No, niente, l'unica cosa è che alla fine a me comunque mi piace più il cacio balilla, quindi senza, vabbè, dai, comunque era mi divertivo sicuramente di più a giocare, sì, certo, perché era meno macchinoso, meno complicato, eccetera. Poi, ma tu facevi le rotelle oppure le rullate? No, le rullate. Il fatto che sono vietate non significa che tu non lo facevi. La domanda era a me, no, come tutti, allora, all'inizio, quando non sei capace, rulli, no? Perché non sei capace, okay. E poi ti dicono non si fa, e allora dopo un po' impari. E poi io ero abbastanza bravo, soprattutto a giocare col portiere e i difensori, e insomma, riuscivo a tirare delle belle, come si dice a Milano, delle belle slippe. Esatto. Che poi, tra l'altro, diciamo che la cosa della rullata era anche pericolosa, perché chiaramente la palla poteva partire impazzita in qualsiasi direzione. E ricordiamo che la pallina del calcio balilla era della certa consistenza, te veniva sulla fronte, te faceva male, insomma. In resina la pallina, esatto. Bella pesante. Esatto. Sì, quindi insomma era per quello anche probabilmente che erano vietati, ma questo non significava che c'era gente che non lo faceva. Va bene, quindi grazie Carlo. Vabbè, ciao a tutti. E Davide, io invece l'ha ricordato Carlo, era una cosa perduta nella memoria assolutamente. Ho apprezzato di più il gioco non dell'arco falco, ma quello che c'era in sala giochi nella cupola trasparente, dove tu tiravi dei cazzotti ai pulsanti, se non ricordo male, proprio, esatto. Agitatissimo per cercare di far arrivare la palla dall'altra parte, finché a pugnate non ci arrivavi. Perché la competizione è sempre una cosa tranquilla, insomma, è nobile, esatto, anche. E mi ricordo più quello e mi sono divertito più con quello che con Subway o simili, ecco. E quindi anche questo è un bel ricordo che mi ero completamente proprio dimenticato. E se magari c'è pure al museo questo gioco, no? No, purtroppo ce l'hanno nel magazzino, non l'hanno ancora restaurato. Però ci sarà pure. Sì, probabilmente lo metteranno a posto. Ce l'hanno in magazzino, perché l'ho visto, che abbiamo visitato, almeno io ho visitato anche il magazzino, e lì c'era, però è da restaurare. Vedi, questa cosa ci siamo scordati di fare le riprese nel magazzino, porca puttana. Ci ritorniamo. Comunque è bello sapere che c'è comunque. No, che quindi si potrà rivedere e toccare magari. Tra l'altro, se andate al museo di Avezzano, fatevi raccontare dei grandi restauri miracolosi, perché veramente, ragazzi, c'è un uomo lì che altro che Scotty dell'Enterprise, esatto. Dedito al restauro. Bravo. Roberto, allora, secondo me è stata una bellissima idea ricordare il Subbuteo, come ho detto, era un passatempo, ma No, molto di più di un passatempo, è una cosa che mi piaceva, mi è piaciuta e mi ha fatto piacere ricordare. Non so se ci giocherei adesso, no, chiamola così. No, ma manco io. Però è un bello oggetto, una bella cosa. Quindi anche io saluto tutti, è stato un piacere risentirci dopo 2 settimane, siamo tutti un po' stanchi. Stiamo avvicinando a fine anno, però troveremo le forze, le energie, nuovi argomenti. Ci stiamo avvicinando a Natale, vorrei ricordare. Allora sì, quella è ancora peggio. Tu dovrai iniziare tra poco sul tuo canale la cosa di avvicinamento a Natale, come si chiama? Quella che l'avvento sul canale, con questa opera che è ancora segreto, però comunque allora spoilerato Carlo, non si fa i cazzi suoi, vedi come al solito. No, ma si può, ormai è giunto il momento, però diciamo l'intenzione è quella di fare un video, di fare 24 video che saranno un calendario dell'avvento elettronico, dove è composto da 24 video, un video al giorno dal 1 al 24 dicembre. È un tour de force, vedremo se ce la farò, ma ce la devo fare. Va bene, ragazzi. Allora, io intanto ringrazio Carlo Santacostino. Ricordiamo che se ce la facciamo, a breve uscirà un video sul canale di Archeologia Informatica. Chiaramente, quindi su YouTube andate, come al solito, iscrivetevi, attivate la campanella. E se ce la facciamo per novembre, insomma, novembre-dicembre, facciamo anche una nuova puntata del podcast, perché insomma i temi ci sono e sarebbe anche il caso, insomma, di muovere, perché qui poi alla fine noi apriamo 50 attività collaterali e ci impantaniamo su tutto, insomma, perché noi vorremmo dare contenuti, ma poi siamo soli e poveri noi prepariamo esatto, insomma, se volete dateci i soldi, così smettiamo di fare il resto. esatto. Comunque, e invece ricordatevi di andare sul canale di Davide Gatti, Survival Hacking, anche lì iscrivetevi, attivate la campanella, ma oramai è praticamente inutile perché tra poco diventerà il nuovo Yotobi dell'astromeccanica, quindi insomma fra poco si dimenticherà anche di noi, no? Non ho tempo di venire a fare quando eravamo futuro. Davide Gatti, vedremo, Survival Hacking, insomma andate e soprattutto divertitevi con tutti i suoi contenuti che vedo insomma che sta proprio spopolando. Questo mi fa anche piacere, poi da una parte, anzi no, mi fa soprattutto piacere perché insomma alla fine lo abbiamo spinto noi nel baratro, esatto. Quindi alla fine va bene. E invece chiaramente molto impegnato per tantissime ragioni, tipo andare ai musei dei cartoni animati, che è un motivo per cui non fare il proprio podcast, spendere i soldi a destra, esatto. Quindi è un motivo per non fare il suo podcast dell'Enda Cartago, che la gente mi scrive: ma sto podcast che faccio, lo cancello? No perché mo torna. No, insomma, guarda, ho in programma di registrare qualcosa settimana prossima perché non vado a casa, perché mi hanno messo riunioni anche di sabato, e quindi quella è una buona scusa, visto che sono bloccato qui, di registrare qualcosa. Che poi, Roberto, diciamolo anche alla gente che ci ascolta, che è curiosa: tu di lavoro fai riunioni, poi fondamentalmente, cioè, scusi, lei che lavoro fa, io esatto, faccio le riunioni. Infatti la mia vita è un breve intervallo fra diverse riunioni. Bello, tu alla riunione la prossima volta sai che devi fare? Signore amico della riunione, ma io e te che cazzo se dobbiamo da dire? Perché insomma è sempre... Va bene, ragazzi. Guarda che dopo tanti anni impari a fare delle facce interessate, anche se in realtà non sei assolutamente... non mi dire. E tu mentre stai pensando al prossimo pet che devi comprare, tipo queste cose qua. Insomma, esatto. Fai bene. E poi devi anche sviluppare una memoria breve, nel senso che devi essere in grado di ripetere quello che hanno detto negli ultimi 20 secondi. Quello basta essere sposati, ci metti. Esatto, anche se non hai... Esatto. È proprio così, anche se non hai nessuna idea di che cosa sia, è solo una cosa sonora, diciamo, no? Melanie in chat dice: ho sentito bene, Roberto torna. No, Roberto ha detto il contrario, ha detto che la settimana non torna, quindi fa il podcast, sta lì e fa il podcast e le riunioni. Il podcast è figlio del lockdown, dice, cioè in gran parte. Ah, cioè tu dici: non c'avevo niente da fare, allora ho fatto... No, ero bloccato qui, non c'erano gli aerei, mi hanno recluso, qualcosa devo fare. Comunque torna. Bene. Allora ragazzi, www.lantimeradio.it, andate sulla pagina anche io, trovate il pulsante se volete contribuire chiaramente a quello che è il lavoro che noi facciamo, e ci fa molto piacere, e semplicemente potete fare una donazione una tantum su PayPal oppure fare una donazione ricorrente su Patreon, perché so che alcuni membri di Runtime donano soldi a cazzo di cane, ma non lo fanno su Runtime, quindi alla fine fanculo a tutti. Comunque no, sul serio, non è obbligatorio, lo sapete, noi questa cosa la facciamo da anni e continueremo a farla finché ci va, e nonostante il costo di gestione, ma se qualcuno vuole dare una mano, noi insomma non gli diciamo naturalmente di no, anche perché pareggiare i costi di... e magari riuscire anche a mettere qualche soldino da parte, metti, si rompe un microfono oppure bisogna andare e ti rubano un microfono esatto. Però lui fa tutto da solo, però può vincere uno spiegone intero di Carlo Sant'Agostino in diretta solo per voi. Infatti. No, così no. Così no, non vale, non vale. Anzi, esatto. se voi vi abbonate su Patreon c'è proprio un contenuto speciale, 2 ore e mezzo di Carlo Sant'Agostino che ripete la stessa cosa in loop. Quindi deve essere una cosa assolutamente bellissima. Dei ceffoni come il cuoco, quello là, come si chiama? Siamo belle persone noi. Canavacciuolo. Ok, domattina vi ricordo dalle 7 alle 8 c'è Leo Varghion con il mattino all'ora in podcast, mentre la trasmissione del sabato mattina alle 8 e mezza alle 9 e mezza andrà in onda invece la domenica mattina sempre dalle 8 e mezza alle 9 e mezza con Disordinati Informati e Michela, che facciamo un po' il sunto delle notizie della settimana, e poi ovviamente tutto quanto ritorna alla normalità con l'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti di essere stati con noi e buonanotte, e ci vediamo alla prossima puntata, che potrebbe essere la puntata con l'ospite, potrebbe essere, altrimenti uno dei tre qua ceffi deve inventarsi una puntata loro. Ciao. Vabbè. Ciao. Ciao. Ciao.